Mentre per la maggioranza delle persone l'ultimo giorno dell'anno è ragione di allegria e di festa, di consueto a me rammenta la vanità della vita. Questo giorno, che potrebbe essere poi qualsiasi giorno dell'anno, ma diverso solo perché il calendario lo elenca come l'ultimo dell'anno, meno mette in evidenza come tutto sia mutevole, limitato, non duraturo. Tutto ha un termine, come alcune amicizie che sembrano incrollabili o amori con promesse eterne. Non è certamente una scoperta sensazionale la mia, e neppure sono il solo a pensarla così, perché anche l'uomo che è stato il più sapiente di questa terra, cioè Salomone, si è espresso nello stesso modo. Vanità delle vanità, dice il predicatore. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Ecclesiaste 1.23. Il termine vanità usato da Salomone, che in questo libro si firma il predicatore o Coelet, secondo altre versioni, meno non ha propriamente il senso che sembra, e cioè che tutto è vano, inutile. Ma Salomone vuole dire che tutto è mutevole, passeggero, che nulla in questa vita può durare o rimanere sempre quello. Questa valutazione e constatazione della vita è la più semplice ed evidente che esista, eppure noi uomini abbiamo nel profondo del nostro cuore un forte sentimento di durevolezza delle cose e perfino di eternità. Che nel nostro cuore ci sia questo sentimento di eternità, anche se alcuni lo hanno soffocato meno, è normale, perché lo stesso Salomone ha detto che Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ha persino messo l'eternità nei cuori degli uomini, Ecclesiaste 3.11. Dunque, avere questo impulso verso l'eternità è normale e umano, ma l'errore consiste nel rivolgere questa attitudine verso le cose di questa terra. Anche se tutto passa, anche se nulla è duraturo in questa vita, gli uomini non considerano la vita come un passaggio dall'esistenza all'eternità. E l'analisi del salmista in merito all'umanità è alquanto opportuna. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente si pensano che le loro case dureranno per sempre, le loro abitazioni siano eterne e così danno i loro nomi alle terre. Eppure anche l'uomo che vive nelle ricchezze non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Questo è il comportamento degli stolti e di quelli che li seguono e approvano i loro discorsi. Salmi 49.1013. Se gli uomini avessero sempre presente la vanità della vita, avrebbero un altro atteggiamento verso ciò che non è durevole ed è passeggero. Nonostante sia tutto passeggero e le situazioni in questa vita in continuo mutamento, Salomone considera che vi è almeno una cosa durevole e alla quale vale la pena tenere in considerazione. Ho così compreso che non crea nulla di meglio che rallegrarsi e far del bene mentre uno vive, e che ogni uomo che mangia beve azzidia quan e kiwama e gani gode benessere in tutta la sua fatica, questo è un dono di Dio. Ho compreso che tutto quello che Dio fa è per sempre, non vi si può aggiungere nulla e nulla vi si può togliere, e Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ecclesiaste 3.1.2.14. Nel suo ragionare, Salomone ha compreso che se anche tutto in questa esistenza terrena è passeggero, la vita stessa vale la pena di viverla con tutti i doni che offre. Ma Salomone non si ferma a questa riflessione. Ha compreso pure che l'opera di Dio è eterna e non soggetta a mutamenti. Dunque, in questa vita dove tutto è vanità, dove ogni cosa è soggetta alla corruzione e al cambiamento, vi è qualcosa di durevole e che merita la nostra attenzione, cioè l'opera di Dio. Se da un lato, mentre si considera la mutevolezza di questa vita, si è portati allo scoraggiamento o alla depressione meno, e questa è una delle ragioni per cui le persone potrebbero essere a ragione depresse meno, se si considera l'opera di Dio, si è portati a suscitare uno scatto di reni per avere una ragione di vivere e di godere i beni di questa vita. L'opera di Dio è l'unica opera consona alla nostra natura che aspira all'eternità, al durevole. Nessuno di noi mette mano ad un'opera inutile. Quando nevica e si forma davanti alla porta di casa un muro di neve, se sono sicuro che il sole dopo un'ora mi scioglie la neve, non penso neppure lontanamente a spalare. Spalo la neve solo se, poiché nonché è il sole, sono sicuro che essa sia un disagio al mio passaggio. Così è per annaffiare il mio orto. D'estate devo continuamente annaffiarlo, se voglio che produca verdura. Ma se sono sicuro che il giorno dopo viene la pioggia, non lo annaffio assolutamente. Quello che demotiva noi esseri umani nel compiere certe opere sono proprio le ragioni della loro inutilità, e per questo ognuno di noi si occupa in ciò che ritiene vantaggioso e utile. Ma se in questa vita tutto è vanità, tutto è temporaneo, come devo comportarmi? E è l'opera di Dio che è eterna, perciò il mio saggio atteggiamento sarà quello di scoprire l'opera di Dio e dedicarmi ad essa. Questa non è una conclusione di un fanatico religioso, ma di uno che prende sul serio la caducità della vita e prende altrettanto sul serio l'opera eterna di Dio. Se ho poca compagnia in questo atteggiamento non è perché gli altri non lo sanno, ma perché non prendono sul serio la vita e le promesse di Dio. Se solo in Dio le cose sono durevoli perché solo Lui è eterno, anche chi opera secondo la sua volontà rimane durevole. L'Apostolo Giovanni lo disse in modo esplicito: «Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno». 1 Giovanni 2.17. Dunque vi è la promessa da parte di Dio che compie la sua volontà rimane in eterno. Altra espressione per dire che ha la vita eterna, cioè una comunione con Dio che non verrà mai interrotta. Questa verità calata nella quotidianità, nella mia vita mutevole e limitata, arriva come il sole dopo la tempesta, come un bicchiere d'acqua fresca nella mia bocca, priarsa. E non solo. Dio ha promesso che chi compie la sua volontà, anche le sue opere avranno un valore che non verrà dimenticato. L'essere ricordati e apprezzati è uno dei bisogni più impellenti dell'uomo, e tutti noi abbiamo sperimentato quanto sia demoralizzante vedere disprezzato il nostro impegno. Ne sanno qualcosa certi genitori che, dopo aver spesa la propria vita per amore di un figlio, si vedono ripagati come se avessero fatto solo dei torti. Ebbene, questo pericolo non esiste in Dio, perché Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Ebrei 11.6. L'autore della lettera agli Ebrei, per incoraggiare i credenti in Cristo, mise in evidenza proprio la fedeltà di Dio. Carissimi, riguardo a voi siamo convinti di cose migliori e che riguardano la salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Ebrei 6.9-10. La verità che Dio non dimentica. Il bene fatto deve e dovrebbe costantemente occupare la mente di ogni figlio di Dio, diversamente. Se diamo importanza alle reazioni ingrate del prossimo, siamo portati a gettare la spugna e imitare i malvagi. Gesù ha avvertito i suoi discepoli che prima del suo ritorno l'iniquità, e quindi anche l'ingratitudine, sarà molto marcata, e sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Matteo 24.1.1.13. Non è possibile perseverare nella fede se non mettiamo a confronto la mutevolezza dell'uomo con la fedeltà di Dio e non poniamo in Cristo tutto il nostro bene. Nella nostra vita nulla è stabile e permanente, anche perché noi stessi siamo in continuo cambiamento. Da bambini si ragiona e ci si comporta da bambini, quando si è giovani si è trasportati spesso dall'impulso della gioventù. Quando si arriva all'età matura ci si adegua alle conoscenze acquisite lungo il corso della vita. Quando si è vecchi si è condizionati dalla nostra età, ormai avanzata. A rigor di termine si potrebbe dire che non si vive un giorno uguale all'altro. Quindi, tutto passa, tutto muta, e per la maggioranza delle volte molto si dimentica. Così non è in Dio. Abbiamo detto che le opere di Dio sono per sempre, che Egli non dimentica, ma occorre aggiungere che davanti a Lui ciò che è fatto in Cristo e per Cristo tutto ha valore, e un valore eterno. L'apostolo Paolo è sempre stato un uomo molto attento a non compiere opere inutili e a non perdere del tempo inutilmente, tanto è vero che nei suoi scritti più volte mette in guardia gli altri e se stesso contro questo pericolo. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Filippesi 2.1.4.16. Chi ha posto fede in Cristo se non cammina secondo le regole di Dio ha vissuto una vita vana, cioè ha vissuto inutilmente perché avrebbe potuto ottenere dei premi e non li ha ottenuti. Questa è la ragione del monito dell'Apostolo Giovanni. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. 2 Giovanni 1.8. Questi continui moniti per non perdersi in cose inutili, per non avere una vita vuota, dimostrano come gli apostoli fossero sensibili alla vanità, a ciò che alla fine risulta inutile e dannoso, e per questo ciò che Paolo ha scritto nella lettera ai Corinzi acquista un valore inestimabile. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 1 Corinzi 15:58. In una sola espressione, Paolo ha per sempre considerato l'altro aspetto della medaglia della sapienza di Salomone. È vero che tutto è vanità, che tutto cambia, ma se il Dio Trino non cambia, se le sue opere non sono soggette alla mutevolezza, allora chi fatica nell'opera di Dio con i metodi di Dio, la sua fatica non è vana. Non conosco nulla di più bello e nulla di più duraturo in questa vanità di vita. Aprile 2006. Ellero.